puntuali. 8.02 minuti, il voltiamo pagina a parte con il ritorno di Silvia, accolta da un tempo British, magari lei a Londra ha trovato il sole, ognuno ha i suoi gusti meteorologici, questo aspetto uggioso pare sia nelle corde della nostra prof, al quale do il buongiorno e bentornata. Buongiorno. Allora, non so chi, buongiorno a tutte e a tutti, non so chi ti ha detto che questo aspetto uggioso è nelle mie corde, perché proprio... Perché sei molto British, sei molto così, allora, insomma, a parte il fatto che è vero che a Londra ho trovato il sole. Bene. È un sole bellissimo, un tempo che... Tutto a rovescio, vedi? Che neanche d'estate, insomma, è stato molto bello. E no, questo tempo non è nelle mie corde. Non ti mette di buon umore. No, tutt'altro, anzi, proprio mi tira fuori il peggio di me. No, dai, non iniziamo in questo modo. Abbiamo due presentazioni e quindi ribadiamo il 333-180-9494. Ho abbinato questo tuo gusto londinese, inglese e quant'altro, ma non sempre tutto viene abbinato alla perfezione. E a noi non piace la perfezione, per cui iniziamo con questa playlist che, oltre letteraria, anche musicale, curata da Silvia e Stefano, che saluto, il nostro notaio. Ci sarà bisogno di Stefano anche per il video che sarà al link www.radiocittafugico.it. Anzi, vi invitiamo, per quanto riguarda le critiche, non so, al nostro abbigliamento, a come ci presentiamo. Siamo due personaggi che bucano il video. Non lo... La risata di Silvia lascia già presagire il suo sentimento su tutto ciò. Comunque, intanto, noi siamo in radio, Radio Città Fugico, il mercoledì è magico ed è con il voltiamo pagina. Io ho un libro che potrebbe essere premio Pellegrino. Attenzione, però, giustamente precedenza a Silvia, che ha curato anche la playlist musicale, e vedo un titolo molto immediato, molto chiaro, e ti lascio la parola per tutto ciò. Allora, questo è un libro abbastanza raro, direi, cioè difficile da vedere in giro, perché è un libro pubblicato da un editore della Svizzera italiana, okay, che si chiama Gabriele Capelli, e l'autrice invece è un'autrice svizzera ma francofona, okay, di Losanna, Anne-Sophie Subillia, che ha vinto anche un premio svizzero con questo libro intitolato La moglie. La moglie, stop. La moglie, sì. È un libro molto particolare che per puro caso mi sono trovata a leggere in questi giorni e sembra fatta apposta, perché si svolge tutto a Gaza. E nel 1974 è la storia di questa signora inglese di origine che raggiunge il marito, che è un delegato svizzero della Croce Rossa, che deve passare un anno a Gaza, e quindi lei lo raggiunge e dovrebbe appunto fargli compagnia, praticamente, perché non ha una riunire la coppia, una occupazione in questo luogo, e questo problema appunto di non avere nulla da fare, diciamo, diventa subito crea subito dei problemi, perché la porta ad avere tanto tempo libero e in qualche modo a esplorare la realtà che ha intorno e trovarsi al centro di una serie di conflitti suoi interiori, perché lei viene da una buona famiglia inglese dove senza dubbio ha avuto, lo dice a un certo punto, ha avuto sempre un sacco di domestici, di aiuti, non ha avuto una vita tutto sommato facile, e potrebbe anche in qualche modo riprodurre certi cliché di vita all'interno della comunità dei cooperanti, dei delegati, eccetera, che vivono un po' al di fuori della realtà locale. Al contrario, lei, proprio perché si annoia anche, comincia a esplorare la spiaggia, i quartieri della gente comune, soprattutto si affeziona a dei bambini che incontra, una bambina, e tutto questo la porta a porsi, anche se in maniera confusa, una serie di domande, prima di tutto su che cosa ci faccio io qua, e poi sul perché questa gente si trovi in questa situazione, perché la situazione è quella appunto di essere completamente imprigionati dalla, dall'occupazione israeliana. Certo. Quindi già a quel tempo, insomma, e siamo all'indomani della guerra del Kippur. E quindi c'è tutto questo strano rapporto che lei crea, per esempio, con il giardiniere palestinese che riesce, e questo è l'unico fatto veramente eclatante del libro, se vogliamo, riesce con quasi senza che lei se ne avveda a far spuntare tutta una serie di fiori dalle pietre del giardino di casa, dove tutti dicevano qui non, questa sono pietre, pietrisco, è sabbia, non è che, arido, non crescerà mai nulla, e invece poco alla volta crescono tanti fiori. E poi c'è tutto questo, il libro gioca tutto appunto su questo, questo rapporto tra la donna, la sua noia, anzi, anche certo, se vogliamo, e la realtà intorno, che è una realtà dove tutto sommato non ci si può invece annoiare, è una realtà di gente che si strappa la vita giorno per giorno con le unghie e coi denti, ed è una realtà di gente molto povera, molto misera, ed è una realtà in cui la donna certo non ha tutte le libertà che lei ha, e anche questo è un altro problema, no? Il fatto che lei si trovi a inizialmente comincia a vivere come avrebbe vissuto a casa sua, quindi vestendo in un certo modo, che so, fumando per strada, andando da sola in spiaggia, cosa più normale del mondo, c'ha la spiaggia davanti a casa, e invece comincia a suo malgrado si trova a dover prendere dei comportamenti diversi, si trova a capire che quello che lei sta facendo è contrario alle regole di comportamento della gente che la circonda, e sì, che se lei vuole andare avanti in un certo modo allora deve farlo in altri quartieri, in altre situazioni. Poi ci sono tutte delle persone che lei incontra, il rapporto sia con appunto i cooperanti, gli europei, gli americani, il cui massimo, il clou delle loro settimane è il venerdì sera in un bar dove si ubriacano fino alle 2 di notte perché non hanno altro da fare, e invece le persone locali che lei comincia a frequentare, sia persone che hanno dei ruoli come una psichiatra di cui diventa amica, sia le persone che vede nella quotidianità, o per esempio c'è una delle scene più forti, diciamo, del libro, è la visita che un medico le propone di fare all'ospedale dei bambini, dove è veramente toccante, sì. Sì, devo dire che non è un libro forte in senso violento, no, certo, ti conosciamo, però è un libro che veramente ti scuote e ti fa riflettere su tante cose. Sentevo poi stamattina le notizie con la strage all'ospedale, e chiaramente pensare che pochi giorni fa appunto leggevo proprio questa scena di questa visita a quell'ospedale, quindi chiaramente perché è il reparto pediatrico di quell'ospedale che lei visita, quindi sì, è un libro che in questo momento dovrebbero secondo me pubblicizzarlo di più. Certo, anche per l'attualità che stiamo vivendo, sì, purtroppo. E a questo punto ti chiedo, è stato casuale oppure c'è stata un'attinenza con quello che sta capitando? No, assolutamente casuale, perché questo libro me l'ha inviato dicendomi: guarda, questo è un libro bellissimo. Me l'ha inviato una detta stampa molto brava, quella che era la detta stampa della mia casa editrice di Pagina 1. E adesso è passata ad altre case, lavora con questi editori indipendenti, e mi ha detto: guarda, ti mando un libro bellissimo, dimmi cosa ne pensi, e io sono qui appunto a dire che cosa ne penso. Confermando che veramente è un bel libro, e e penso che lei lo sentirà, perché di solito lei ci ascolta. E quindi la salutiamo. E io ti faccio i miei complimenti per l'articolo su Leonard Cohen, che mi sono ritrovato all'improvviso su Alias, ma in edizione del sabato. Sì, perché sai che ho ricevuto le bozze del libro di Cohen ancora in giugno e luglio, e da allora ho cominciato a chiedere se potevo fare la recensione, se volevano una recensione. Certo. E la risposta era sempre no, Cohen per Alias della domenica non interessa. Okay. A un certo allora, punto si sabato... vede, no, non l'ho chiesto, si vede che ho rotto tanto le scatole. Brava. Un giorno mi è arrivato un messaggino: beh, se vuoi posso chiedere se a quelli del sabato interessa. Visto, alla fine ha portato il risultato. E io ho avuto anche la spudoratezza di dire: sì, sì, facciamolo pure, però Cohen si meriterebbe la domenica, non il sabato. Abbiamo una playlist, inizieremo da una pianista, una compositrice che nel mainstream jazz ha avuto un'importanza raffinata in queste note che ascolteremo a breve, la sua casa editrice, la Verve Universal. Lei tanto brava è anche una bella donna, è Diane Kroll. Tra poco però il brano sarà presentato da Silvia. Aggiungo un aspetto che esula un po' dalla narrazione principale di questo lavoro. A volte nella noia poi le persone più sensibili trovano la possibilità di valore aggiunto nella scoperta, nella realtà in confronto a quella realtà parallela in cui sono catapultati, e tutto ciò dà indubbiamente una possibilità oltre di crescita. La noia non è da sottovalutare, è da coltivare. C'è sempre un'accezione negativa a questa parola, probabilmente perché non abbiamo più tempo per questo. In questo caso è diventata una noia forzata, no? Ma allo stesso tempo ha cresciuto una sensibilità, ha cresciuto una conoscenza, seppur in una parte dolorosissima del mondo. La moglie, l'autrice della Svizzera francofona, nome? Anne-Sophie Subilia. Comunque avrete sulla pagina Facebook del Breakfast Club e non solo il podcast con tanto di immagini. La copertina è molto minimale ma è molto bella. È una calligrafia. Sì, è una graffia, sì, araba. Una graffia, sì, araba. Con lo sfondo bianco. E la casa editrice Capelli Editore? Gabriele Capelli Editore. È una casa editrice svizzera. Di Mendrisio, in Svizzera. Okay. Svizzera italiana, quindi. Stacco musicale con Diane Kroll. Vogliamo dire due parole di presentazione, Silvia? Ma semplicemente che il brano l'ho scelto perché in omaggio a te, perché grazie. È un brano di Burt Bacharach. Oh, grazie. Vediamo se lo riconosco. The look of love. Is in your eyes a look, your smile can't disguise the look. See, and what my heart hears heard, well, it takes my breath away. I can't hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited just to love you. Now that I have found you, you've got the look to show. Oh, love, it's on your face. Oh, look, the time can't erase. Mine. so many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can't hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, don't ever go. Don't ever go. I love you so. Tratto da un live in Parigi, potrebbe arrivare anche in via Silvagni, quindi mettilo presto via questo disco di Diane Kroll, per il quale ti ringrazio tantissimo. Bart Baccarat è un tutti i tempi, di lui ascoltate tutto, ma lo ascoltate in ogni momento se siete amanti del vero pop. Lo stesso Paul McCartney affermò, grazie a Bart Baccarat, grande ispirazione anche per la musica dei Beatles. Io ho ricambiato la cortesia, stamattina in playlist ho messo Something interpretata da Shirley Bassey. L'ho sentito stamattina mentre facevo colazione. Grazie. Sì. Feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, don't ever go. La versione originale, questa è un'interpretazione pregevolissima anche dal punto di vista strumentale, e poi leggerò gli interpreti anche nelle singole voci perché ne ho curiosità. Chiaramente per me Bart Baccarat è un numero uno tutti i tempi, quindi allora, però ora parliamo di letteratura e del libro appena presentato da Silvia, che è in palio per... Sì, sì. Ok, lo metteremo in palio, quindi a breve avremo anche il quiz al 333-180-9494 per il voltiamo pagina odierno. Paulinho de Costa alle percussioni, grande percussionista brasiliano, quindi anche l'accompagnamento dei musicisti all'interno di questo live è di buonissima se non che ottima fattura. Allora, la scrittura invece dell'autrice che hai appena presentato? Molto diretta, è tutto al presente, frasi secche, veloci, è scritto in maniera molto semplice, scritto in maniera tale che hai la sensazione di essere lì, che stia accadendo in questo momento e che tu stai, è molto, se vogliamo, da un certo punto di vista cinematografico. Sì. Però di una cinematografia minimale, non visionaria. Non con degli svolazzi visionari. Perché tu hai la sensazione di essere lì e di vedere questa donna che sta facendo questa cosa. E nel momento in cui lei, che so, va sulla spiaggia, tu sei lì che la vedi, che va sulla spiaggia e che la guardano perché è sola, perché nessuno la accompagna. Ipervero. Sì, sì, è molto... Abbiamo un'immagine immediata. Sì, è molto immediato e molto... come dire, in qualche modo vuole anche essere un po' un... al di là del discorso fortissimo che c'è sulla situazione politica, certo, eccetera, grave. È anche un discorso molto interessante tra le righe, ma non troppo, sulla politica di genere, sì, sulla condizione femminile, e su questa, non a caso il romanzo si intitola La moglie, certo, perché in quel contesto lei, che è una donna colta, emancipata, eccetera, che conosce un sacco di lingue, eccetera, lei lì è solo la moglie. Sì, il tra virgolette non è il protagonista del libro, ma personaggio importante in quella situazione è il marito. Certo. Paradossalmente, il marito che è più giovane di lei, di diversi anni, ed è più anche più, come dire, da un certo punto di vista anche più meno colto, meno, è una figura tutto sommato abbastanza a tratti scialba, sì. Però è lui che è a lui che si rivolgono tutti. Ah, lei è solo, immagino, la moglie. Certo, certo. Immagino questa dicotomia ben netta anche nella scrittura, come viene rappresentata. E spesso lei ha un nome, tra l'altro anche un nome ridicolo, perché si chiama Piper. Però quasi sempre, quasi mai viene chiamata per nome. Nel libro è sempre chiamata come la donna, la moglie, in maniera molto anonima. Certo, e nonostante ciò, appunto, in questo lavoro si ha un'evidenza, da quello che ho intuito, di questa figura e soprattutto della sua crescita, trovata in un momento di gravissima difficoltà e portata da una situazione di apparente inattività. Ma sono proprio quelle, secondo me, le situazioni che nelle anime più sensibili danno poi la possibilità di uno sviluppo ulteriore. Ma cosa fai nel mese di vacanza, mi chiedono? Io rispondo sempre: niente, niente. Vedrete che qualcosa accadrà, sicuramente. Sì, guarda, l'unica cosa è che un conto è non fare niente in vacanza. Un conto è non fare niente in un contesto in cui ci sarebbe tanto da fare. Sì. Perché lei certe volte si dice anche che si sente in colpa perché non si offre di fare del volontariato, però non se la sente. Anche perché lei è in un contesto tra cooperanti, sì, collaboratori, assistenti e tutto quello che può essere presente. E infatti tutti le chiedono: ma quando lei va all'ospedale le dicono: sei venuta per far lavorare, sei venuta per cercare un lavoro? E lei resta un po' in difficoltà, perché vedi, non è quello che vuole lei. No, però capita in questa apparente noia una possibilità, e la possibilità che porta, come ho detto in precedenza, se il protagonista saprà cogliere quello che è indubbiamente un motivo di crescita. Quindi la noia non esiste. Minuti, il libro in palio. Hai pensato al quiz? Sì, ho pensato al quiz. Allora lo possiamo enunciare. Lo enunciamo. Ribadendo il 333-180-9494. Allora, il libro si chiama La moglie. Vediamo chi prenderà moglie. No, vediamo, facciamo un gioco di tipo cronaca rosa. Ah, beh, certo. Vediamo di chi sono le mogli. Allora, okay, abbiamo ascoltato Diane Krall. Io voglio sapere di chi è la moglie Diane Krall, ma non basta. Adesso ascolterete Petra Magoni. Io voglio sapere di chi era la moglie, di chi è stata la moglie Petra Magoni. Beh, non è un quiz così facile. Però al giorno d'oggi tutto è facile. Tutto è facile, brava. Petra Magoni, anche lei grande interprete, la ascoltiamo. In una delle canzoni più struggenti di Jacques Brel, cioè la canzone dei Vecchi Amanti. Ah, grande. Da ascoltare, brava, in rigoroso silenzio. Sergio sicuramente ne sarà molto lieto. E di questo, appunto, Petra Magoni e Diane Krall, i consorti per avere la moglie, presentato ora da Silvia Albertazzi. 333-180-9494. Tra poco. In questa stanza senza culla, i lampi dei vecchi contrasti. Non c'era più una cosa giusta, avevi perso il tuo calore ed io la febbre di conquista. Mio amore, mio dolce, mio meraviglioso amore, dall'alba chiara finché il giorno muore, ti amo ancora, sai, ti amo. Delle tue magie e tu della mia intimità, sapevo delle tue bugie, tu delle mie tristi viltà. So che hai avuto degli amanti, bisogna pur passare il tempo, bisogna pur che il corpo esulti.

complimenti per la selezione musicale a Silvia e immagino anche Stefano, immagino. È stato un lavoro di coppia, sì. Questa volta sì, perché volevo quattro voci femminili. E io ne avevo trovato un paio e mi mancavano le altre per completare la playlist. E abbiamo fatto insieme questo. Bellissimo, diciamo, ce l'ho. Ce l'hai. Ce l'ho, no, perché poi scattano. Questo è il disco di Rita Marco Tulli con Inè. E la voce è di Ania Garbarek, la figlia di Ian Garbarek. Infatti poteva mettere anche con le figlie sì. famose. E questo appunto è bello perché è un doppio, cioè è un doppio femminile, cioè c'è la pianista donna che ha scritto le musiche donna e la cantante. Il disco che tra l'altro vi invito a recuperare, Rita Marco Tulli Koinè, è una parola africana, è un disco che ha sonorità anche con questo orientamento. La mia è un'autrice africana, mi sto anch'io diciamo prendendo posizione di letteratura extraeuropea ed è stata una sorpresa bellissima. Andiamo con ordine, allora. Buongiorno William e Silvia, la risposta è Elvis Costello e Stefano Bollani. Paola, grazie Paola, la tua risposta è esatta, ma ho enunciato le vincitrici e i vincitori andando con ordine ovviamente inverso. La domanda era chi sono appunto i mariti, visto che il libro è La moglie di Diane Kroll e in seguito di Petra Magoni. Quindi chi era? Non è più il marito di Petra Magoni. Certo, certo, però insomma sapete bene come funzionano poi queste cose. Per Dino, che ha scritto benissimo, però anche lui è sul podio, ma non è arrivato in tempo, è arrivato un pochino dopo. Poi Dino, hai tanto da leggere. Stefano Bollani e Elvis Costello, ovviamente questo non influisce, a parte che per Andrea, sto scherzando Andrea, anche perché Andrea ha risposto esattamente alla nostra domanda. Abbiamo un'altra ascoltatrice o ascoltatore che risponde esattamente, mi è andato via il messaggio, sto cercando di recuperare il nome che purtroppo non trovo, però insomma la risposta è esatta, Elvis Costello e Stefano Bollani. È il momento della vincitrice, è con grande gioia che dico appunto che vi dico che la vincitrice è Cristina. Non ha vinto tantissimi libri, quindi è ben felice che abbia partecipato e oggi in maniera assolutamente puntuale è arrivata prima nella risposta Elvis Costello e Stefano Bollani. Allora potrai ritirare da domani, lo consegnerò alla libreria Ubik in Via Nerio 27, ovviamente a Bologna, libreria che ringrazio. Complimenti Cristina. Per le altre ascoltatrici e ascoltatori ricordo che a breve vi sarà anche il mio quiz, che è solo questione di tempo e velocità nella risposta, perché è molto molto semplice, Chiedo a Stefano forse se ricorda questo disco che tengo come base perché è di una bellezza. È per le edizioni Manifesto, era un disco del Manifesto, ti ricordi? Secondo me sì, comunque faremo ricerche. Sapete che il Manifesto per un periodo ha fatto anche edizioni musicali. A me pare che questo lavoro appunto sia arrivato da questa atipica casa editrice. Questa è una mia scelta, non sua. Ruanda, Africa, casa editrice Utopia che da tempo seguiamo, ritorna protagonista nel Voltiamo Pagina. Sister Deborah, sorella Deborah, siamo in Ruanda, la scrittrice ha chiaramente il nome che mi metterà in difficoltà, Scholastic Mukasonga, non l'ho pronunciato bene ma è così, la mia interpretazione ne è questa. L'interpretazione di questa storia invece per la collana Letteratura Straniera Utopia è qualcosa di veramente importante, non solo perché ci dà attenzione a un territorio martoriato dalle guerre civili più che mai sanguinose nel continente nero. Arriva per le donne di questo villaggio in Ruanda, Sister Deborah, accompagnata da una serie di proseliti, chiamiamoli così, di un, non riesco neanche a definirlo santone, perché alla fine santone non è, sono ragazze e ragazzi afroamericani con questa figura carismatica e al suo fianco Sister Deborah, che parlerà, che si avvicinerà, che avrà motivo di ascolto per le donne del Ruanda che vivono situazioni veramente gravi, se non che gravissime. Il loro compito è procreare, il loro compito purtroppo è limitato a questo, non hanno delle possibilità alcune, hanno un aspetto molto sottomesso nei confronti dei mariti, una situazione, come ho già detto, più che mai grave, e l'arrivo di queste figure, in particolare della protagonista Sister Deborah, sarà qualcosa di sconvolgente, per alcune in maniera positiva, per alcuni ci sarà scetticismo, perché i mariti, gli uomini per meglio dire, adesso ormai divido in mogli e mariti, per gli uomini in questo caso, ovviamente saranno ciarlatani, saranno personaggi che non hanno alcun valore se non che l'aspetto di millantare queste profezie che poi si avverano. Quindi questo è un ulteriore aspetto in una scrittura, non dico di realismo magico, ma come struttura quanto mai originale. Molto brava la scrittrice del Ruanda, che ha avuto diversi riconoscimenti. Sister Deborah è questa messia, chiamiamola così, che porta una speranza, e la parola chiave è speranza all'interno di questa narrazione. Scopriremo anche perché. Romanzo nel romanzo sarà la parte di traino di Sister Deborah, in quanto il tempo poi procede tra avvenimenti che accadono, tra profezie, tra speranza, e qualcosa di importante va poi in maniera coinvolgente come valore aggiunto a prendere piede tra la popolazione del luogo. Perché? Perché sono afroamericani, quindi non vedono l'aspetto coloniale bianco, non vedono degli occidentali tipici, visi pallidi, e sarà un motivo ulteriore per dire: ma no, hanno lo stesso nostro colore della pelle, le profezie si sono avverate, qui veramente avremo mille anni di felicità e il Ruanda sarà un'ipotetica terra promessa. Passa il tempo, se ne perdono le notizie, finché un'altra ricercatrice informata sui fatti andrà alle ricerche di Sister Deborah. Arriva questa ricercatrice, anche lei afroamericana, a sua volta è stata protagonista. Attenzione alla scrittura nella scrittura, che è importante la parola scrittura in tutto ciò. E questa ricercatrice e scrittrice parla di Sister Deborah agli abitanti e alle abitanti del posto, che restano assolutamente sconvolti e la prendono per la messia, per la figlia, per quella che potrà portare avanti la speranza. Lei stessa racconterà che è stata salvata dalla Sister Deborah in terra natia negli Stati Uniti, grazie alla cultura, grazie alla letteratura, grazie agli studi, e quindi questo darà modo e adito a un'ulteriore continuità di speranza con le motivazioni che vi ho appena citato. Tutto ciò strutturato in una maniera molto originale, un romanzo nel romanzo, una scrittura nella scrittura, dove la speranza è la parola chiave nonostante le difficoltà per poter continuare a crederci e per continuare ad andare avanti. Scholastic Mukasonga è un'autrice classe 1956, come ho detto non è una letteratura immediata, è molto originale, ma nello stesso tempo ha veramente motivo, grazie a questa originalità, non solo di conoscere un'altra letteratura, ma di portare anche in maniera importante determinati valori all'attenzione di quelli che sono i percorsi di vita legati alla cultura e alla scrittura. Sister Deborah, Scholastic Mukasonga, la collana è letteraria straniera, edizioni Utopia. casi sin abrigo. He llorado al pie del temblor con grillos heridos. Te vas y no quieres llorar. Te vas, no te voy a olvidar. Llueven alaridos de reina mortal. Que al gigante matas, pero de mujer. Reina Mortal sembra un caso, ma il caso non esiste. Prima con il disco di Rita Marco Tulli, Coinè, con chiare sonorità africane, ora al titolo di Susana Baca, una vera regina della musica, lei peruviana, e il brano Regina Mortale, Sister Deborah. Llueven alaridos de reina. Com'è al cinema che si dice tutti gli avvenimenti sono puramente casuali, sì. Te vas y no quieres llorar. E questa regina mortale, accompagnata da questa figura afroamericana, sarà la figura femminile che parlerà con le donne, le darà una speranza, profezie che si avverano, tanti che seguono questi percorsi, finché la popolazione femminile ruandese ne resta totalmente coinvolta. Passano gli anni, queste donne soggiogate riprendono una speranza, riprendono, grazie anche a degli insegnamenti che Sister Deborah porterà, questa speranza che è il filo conduttore del lavoro. Si pensa poi nel passare del tempo che sia stata uccisa, che abbia seguito altri percorsi, sparisce. Una ragazza afroamericana arriva, è una scrittrice, per cercarla, e tutta la popolazione dirà che è stata una figura fondamentale e che lei ne è probabilmente la figlia, come una sorta di messia che porterà avanti le parole di questa figura da cui prende il titolo il lavoro. La domanda è facilissima. È stato definito, abbiamo parlato dell'antica Roma, no? Nella puntata di lunedì nei magazine. La domanda è facilissima, è questione di tempo. Era l'antagonista di Annibale, era definito l'africano. Mi dite il nome di questo personaggio, di questo guerriero estremamente carismatico, antagonista di Annibale che passò le Alpi con gli elefanti. Beh, chi era questo? È già arrivata la risposta, però ascoltiamo Gregory Porter, poi daremo ovviamente il responso. It's probably me. When your belly is empty, the hunger's so real, you're too proud to beg, you're too dumb to steal. Vi dico che Giulia ha risposto esattamente, Scipione. Sapete che c'è una frazione di Salso Maggiore Terme dove si narra vi siano le spoglie mortali di Scipione l'africano, e infatti questa frazione si chiama semplicemente Scipione. Brava Giulia, alla UBIC ti aspetta da giovedì pomeriggio il lavoro di Scholastic Mukasonga, Sister Deborah. È il momento, appunto, qualcosa da dichiarare, Silvia? No, volevo solo dire che domani sera alle 20:30 al centro sociale Il Mulino di Bentivoglio, in piazza Pizzardi numero 19, presenteremo il mio libro su John Lennon, e mi farebbe piacere se qualcuno vuol venire a sentire, qualcuno che si trovi da quelle parti, qualcuno che ci ascolti da Bologna o dintorni, appunto, domani sera alle 20:30 a Bentivoglio, al centro sociale Il Mulino. E tra l'altro vi consiglio anche una visita al Museo della Cultura Contadina, che è veramente molto bello. Il castello di Bentivoglio è molto bello, non sottovalutiamo la nostra pianura. Oltretutto protagonista Silvia Albertazzi, con il lavoro che le ha portato il premio Pellegrino Italia nella scorsa stagione su John Lennon, che sarà in presentazione al centro sociale Il Mulino alle ore 20:30. Nell'invito c'è scritto: agli intervenuti sarà offerto anche un bicchiere di vino e una fetta di torta. Magico. Noi vi offriamo un caloroso abbraccio e i libri presentati per i vincitori, ma vi aspettiamo mercoledì prossimo. Ringraziandovi per l'attenzione, vi ricordo che dopo la pubblicità ci sarà l'Edipeo Enciclopedico. Segue la rassegna stampa curata da Alfredo Pasquali, anticipata da Liberi Dentro, e il grande Rock Live di Nevio è protagonista nella mattinata del mercoledì. Domani andiamo in mostra, da non perdere, la Biennale del Mosaico Alberto Burri. Siamo al Mar di Ravenna. Vi aspetto alle ore 7 per la colazione Breakfast Club di Radio Città Fujiko. Un buon mercoledì a tutte e a tutti, ricordando che anche questo Voltiamo Pagina è stato curato e condotto da Silvia Albertazzi e da William Piana. Ciao, ciao a tutti. Ciao.